semplicemente anche un fatto da niente, attraversato dalla corrente, nello spazio e nel tempo, nasce piccolo infinitamente, poi diventa troppo importante. Televisione banale, acqua che scorre mentre leggo il giornale, camminare col cane sull'argine del canale, telefonare per prenotare, caffè, ginnastica sul pavimento, arrotolare il tappeto e dimenticare l'appuntamento, a quasi averlo fatto apposta. Nel mobile bianco, connettere i cavi per ascoltare in quasi tutti i locali, poi scegliere le canzoni ideali da consigliare agli amici geniali, invitare qualcuno stasera, domani pensare di uscire e il giorno dopo riposare, il successivo ricominciare. Semplicemente.